tempo di sport. Amici di Radio 24, buon pomeriggio da Massimo Callegari, Luca Rinaldi in redazione, Fabio Cantadori in regia. Le vostre telefonate all'800 24 00 24, i vostri messaggi SMS al 349 238 6666. Per fortuna, ieri avevamo previsto e annunciato di trattare oggi il tema della tessera del tifoso a pochi giorni dall'inizio del campionato di Serie A. Per fortuna, perché così possiamo limitare gli effetti di una delle disillusioni più clamorose del calcio italiano in Europa negli ultimi anni, per l'entusiasmo che si era creato e per la capacità che la Sampdoria aveva dimostrato di rimontare il Werder Bremen dopo il fragoroso 1-3 dell'andata. È successo quello che nel finale in pochi immaginavano, con il cambio di Di Carlo che farà discutere molto sicuramente per le strade, i carrugi di Genova, oggi quello di Cassano nel finale, un messaggio alla squadra che forse il più era fatto, ma davvero tanto aveva fatto la Sampdoria, e la delusione finale di Di Carlo è quella di tutto il popolo blucerchiato. Peccato, perché comunque un gol preso al 92esimo, due errori fatti in una gara al 92esimo, che ha preso questo gol che ci ha tagliato un pochino le gambe, però anche la sostituzione di Tissone, che era appena subentrato, ci siamo mangiati una sostituzione che poi alla fine l'abbiamo pagata in tempi supplementari. Questo Di Carlo che parlava di un paio di errori, uno probabilmente quello di Volta, che lascia scorrere Rosenberg senza seguirlo nell'azione che porta al gol dell'1-3, che è poi quello che cambia il quadro tecnico, tattico e psicologico del match in vista dei supplementari, peraltro dopo una prova eccellente dell'ex difensore centrale del Cesena impiegato nella sua posizione originaria, a differenza del match di andata. È chiaro che, anche se non è dato saperlo, forse qualcuno a Villar Perosa, dopo aver confezionato una reazione da toni eccessivi nei confronti della dichiarazione altamente evitabile di Massimo Moratti, non è dato saperlo, ma forse qualcuno lì a Villar Perosa, nella cerimonia di presentazione della nuova Juventus, lo champagne dal frigo lo ha estratto al gol del Werder Bremen, non per festeggiare chiaramente l'eliminazione della Sampdoria, quanto perché questo forse riapre scenari di mercato per lungo tempo ieri sera impensabili nel passaggio di Pazzini alla Juventus. Pazzini che ieri sera ha segnato un altro gol memorabile. Cassano invece ha convinto in parte Garrone e comunque, dice il presidente, alla fine del match resterà a Genova. Sera non è stato il Cassano che tutti vogliamo sia, molto meglio della partita di andata, ecco. Non so, qualcuno diceva che aveva un po' il fiato grosso, ma mi sembra, con le corse a 100 all'ora che ha fatto, chiunque l'avrebbe, ecco, anche un velocista. Puntualmente lui è molto legato a Sampdoria, legato a Genova, felicemente sposato, si trova molto bene, poi a Sampdoria è la squadra ideale per lui, dove se gioca come ha sempre giocato, non ha competito, sì. Poi con Pazzini forma una coppia straordinaria. Pazzini e Palombo, per ora, ha detto Garrone facendo passare un brivido sulla schiena dei tifosi della Sampdoria, restano qui per un'altra stagione ad alti livelli. Inevitabilmente arriveranno vostri contributi, presumo, all'800 24 00 24, messaggi SMS al 349 238 6666, ma credo che ne arriveranno anche sul tema che stiamo per affrontare con Marco Bellinazzo, collega del Sole 24 Ore, che è qui con me e con voi naturalmente a disposizione per cercare di capire lo stato dell'arte della tessera del tifoso. Bentornato Marco, buon pomeriggio. Ciao Massimo, buon pomeriggio. Ieri una lunga intervista molto convinta e soddisfatta del ministro dell'interno Maroni, che dice: è falso definire schedatura la tessera del tifoso. Chi sostiene questa tesi lo fa per interessi inconfessabili e per niente nobili. Non siamo preoccupati e non credo che il calo degli abbonamenti vada collegato all'introduzione della tessera. Dipende da altri fattori. Sono soddisfatto. Non tutto è stato realizzato in modo omogeneo, ma quanto doveva essere fatto, o almeno avviato, è avvenuto. Tu hai recapitato qui in studio altre agenzie ancora più recenti di questa mattinata con Maroni che ribadisce la sua soddisfazione. Ci sono però tanti aspetti da valutare e anche da chiarire a chi ci ascolta. Aspetti da valutare, problemi operativi che nascono, che a mio avviso potevano essere ampiamente evitati, e riguardano in particolare Lazio e Napoli, magari dopo ne parleremo. Io partirei però da una premessa. Non si tratta, a mio avviso, di essere a favore o contro, a prescindere la tessera del tifoso. Bisogna capire qual è l'obiettivo della tessera del tifoso e, alla luce di questo obiettivo, valutare appunto l'efficacia di questo strumento. Se l'obiettivo era riportare le famiglie allo stadio e tenere dallo stadio lontano i violenti o i delinquenti, perché in molti casi si tratta di questo, è inutile fingere, l'obiettivo è parzialmente riuscito, perché la tessera del tifoso, per esempio, tanto per iniziare a valutare uno di questi aspetti un po' più problematici, è obbligatoria per acquisire l'abbonamento, ma forse gli ultra non hanno bisogno di comprare un abbonamento per entrare allo stadio, e per seguire la propria squadra nel settore ospiti. Quindi, per seguire un match nello stadio della squadra di casa non è necessario avere la tessera del tifoso? Assolutamente, assolutamente no. E quindi chiaramente chi ha cattive intenzioni allo stadio ci può andare in questo campionato come ci andava nei campionati precedenti. Addirittura aggiungo che si potrebbe creare un effetto perverso, in quanto quelle tifoserie più accanite che si sono opposte a questo progetto e che hanno annunciato in vari modi, in modi più o meno simpatici, che non aderiranno alla tessera del tifoso, potranno in qualche modo provare almeno a comprare i biglietti per le trasferte e mischiarsi ai tifosi delle squadre locali, evitando il settore ospite, quindi creando maggiori problemi di ordine pubblico, con evidentemente, insomma, riflessi assolutamente negativi. Andiamo con ordine. Si parla anche in maniera impropria, credo, anche se il campo è più tuo che mio sicuramente, di reato da stadio negli ultimi tempi. Cosa significa questo in maniera concreta? Guarda Massimo, questa è una categoria giuridica inventata con la tessera del tifoso, che al di là, insomma, della ironia, ma insomma si può creare il diritto, insomma, è nelle aspirazioni, nel potere del legislatore, ma in questo caso, insomma, ha dei riflessi operativi un po' più complicati, in quanto al di là di chi ha un DASPO sarà messo nella condizione di non avere la tessera del tifoso chi è stato condannato, si dice, negli ultimi 5 anni per reati da stadio. Questo significa che le questure alle quali le società dovranno rivolgersi dovranno andare a verificare nel casellario giudiziario se chi chiede la tessera del tifoso è pregiudicato, se ha commesso quindi un reato, andare a verificare per esempio se quel reato, per esempio facciamo il caso della resistenza a pubblico ufficiale, è stato commesso in situazioni normali oppure nell'ambito di manifestazioni sportive. Anche fuori dallo stadio, ma nell'ambito di manifestazioni sportive, se uno ha litigato con un vigile urbano vicino allo stadio, ma per fatti suoi, insomma, potrà evitare di subire per un divieto di sosta non c'è problema. Insomma, si dovrà andare a verificare, e la tempestività di questa verifica non so quanto possa essere semplice. Non è che si mette, diciamo, le questure nelle condizioni di consultare in automatico le banche dati e far uscire tutti quelli che hanno subito condanne negli ultimi 5 anni per reati da stadio. Insomma, c'è un lavoro certosino che bisognerà fare e non è immediato. Il problema nasce quando la tessera del tifoso viene concesse, attribuite, nel corso dell'anno si subiscono queste condanne. Al di là del problema della tempestività con cui dai tribunali i dati vengono poi inviati al casellario giudiziario, c'è il problema appunto di una tempestiva comunicazione da parte della questura alle società, che dovranno in quel caso sospendere la tessera del tifoso e in automatico anche l'abbonamento, con riflessi civilistici importanti, perché l'abbonamento poi è stato pagato, insomma. Esatto. E chiaramente dovrà essere precisato anche questo punto. Torniamo tra un istante, dopo gli aggiornamenti sul traffico, con alcune voci pro e contro la tessera del tifoso da parte di persone che rivestono anche ruoli istituzionali importanti in ambito generale e calcistico specifico, con altre frasi e altri brani dell'intervista di ieri del ministro Maroni alla Gazzetta dello Sport. Le vostre telefonate all'800 24 00 24 e anche messaggi SMS al 349 238 6666 su questo e anche su altri temi di attualità calcistica più tecnici e imminenti, immediati, con il Barça ad esempio, che dice attraverso il Mundo Deportivo, il quotidiano catalano prestigioso assieme a Sport: lo chieren gratis, il Milan vuole Ibra gratis. Sono abbonato in tribuna Arancio Primo Anello, a San Siro, presumo, e vedo gli ultras al bar che entrano senza biglietto, scrive Max al 349-238-6666, mentre Maurizio da Parma ribadisce e sottolinea: i 20.000 romanisti presenti sabato sera a Milano avevano tutti la tessera del tifoso? Chiede naturalmente con ironia. Peraltro, ribadisco, sabato sera ero presente in tribuna stampa, c'è stato questo momento di grande caos e alta tensione, anche perché un tifoso piuttosto robusto dell'Inter sembrava voler sfondare il cancello che separa la tribuna stampa dalla tribuna comune alla destra delle telecamere, per intenderci, quindi vicino alla curva occupata dai 20.000 tifosi della Roma. In realtà voleva solo aprire il passaggio per gente comune che era arrabbiata, impaurita, innervosita e molto delusa per quello che stava succedendo, che voleva scappare dal lancio di oggetti vari da parte dei tifosi della Roma, che rappresentano un esempio specifico in questo caso e non l'unica tifoseria che è passibile di sanzioni, che peraltro sono limitatissime, no? In termini economici. Marco Bellinazzi. 20.000 euro è costato alla Roma quello che è successo sabato sera. Io, se posso aggiungere una testimonianza meno diretta, ma è di qualche ora prima, del sabato pomeriggio, che mi è felicemente trascorso a guardare, insomma, calcio in TV, calcio tedesco e inglese, con stadi pieni, festanti e senza il minimo problema. Crea un po' di tristezza e qualche ombra la getta sul sistema calcio Italia. Tra l'altro, accennavamo prima a quei problemi di Lazio e Napoli. Sì. Tra le agenzie, tra le ultime che mi è capitato di vedere, c'è questa del questore di Napoli, Santi Giuffrè. Tra l'altro, apro una parentesi, si era parlato anche già di un giro di false tessere del tifoso a Napoli, con un'inchiesta aperta dalla procura, ma questo, insomma, forse è più folcloristico che tale, anche perché ricordava appunto il questore: perché ci sia un falso c'è bisogno di un originale, ma a Napoli tessere del tifoso non sono state ancora stampate, perché la società che doveva stamparle fino al 23 agosto era chiusa per ferie, quindi queste tessere non sono state vendute, con questo problema però molto grave per chi ha acquistato a Napoli i biglietti per Fiorentina Napoli di domenica partita sera, calda di suo. Di suo, che a detta del questore invece di Firenze non potranno essere ammessi al settore ospiti, perché non hanno materialmente la tessera del tifoso, avranno una ricevuta che però per la questura di Firenze non vale nulla. Ora il ministro Maroni ci ha detto che stamattina c'è stata una riunione col capo della polizia per risolvere il problema, vedremo da qui a domenica se per i tifosi del Napoli e della Lazio il problema sarà effettivamente risolto o avranno diciamo acquistato biglietti inutili, quindi dovranno rivalersi economicamente sulle ricevitorie che li hanno venduti. Il questore di Firenze è Francesco Zonno, è arrivato da Udine per sostituire Francesco Tagliente, che ha lavorato bene soprattutto e molto nello specifico per il rapporto con la tifoseria dello Stadio Franchi, e si è trasferito a Roma e sarà il questore di Roma, è il questore di Roma, e dunque chissà, forse anche lì cercherà di intervenire in maniera rigorosa e con un rapporto migliorato e migliorativo per tutti con le tifoserie di Roma e Lazio. Ci sono due ascoltatori all'800 24 00 24 in attesa su questo tema. Ancora qualche istante di pazienza, perché prima di dare spazio alle vostre voci vorrei sentire quelle di due figure che hanno un peso istituzionale importante. La prima è quella del presidente del sindacato generale autonomo di il segretario generale del sindacato autonomo di polizia, Nicola Tanzi. Perché l'identificazione sicuramente servirà alla sicurezza, sicuramente chi va allo stadio per delinquere ma non per vedere la partita ci penserà due volte prima di delinquere, perché avremo più facilità per l'identificazione. Tutte le società sicuramente si sono adeguate, tant'è che siamo in ritardo di un anno su questa operazione, proprio perché è stato dato il tempo alle società di adeguarsi. E le società, aggiungiamo, hanno comunque cercato di ritardare l'introduzione della tessera del tifoso, cui è un po' a sorpresa contrario Renzo Olivieri, che rappresenta gli allenatori italiani e dunque una parte delle istituzioni calcistiche molto importante per il nostro paese. Sentite Olivieri. Non muore nessuno a stare senza questa tessera, voglio dire. Io credo che per riempire gli stadi ci voglia la volontà da parte di tutti. Intanto una possibilità di accesso alle partite un pochino più semplice. E poi porre rimedio alle cose che non sono andate fino ad oggi. E i rimedi sono anche semplici, ripeto, le cause sono chiare, i personaggi sono conosciuti. Quindi questi sono interventi che possiamo fare in tutta tranquillità. E poi devono comunque contribuire le squadre, i calciatori, gli allenatori, a dare uno spettacolo che sia bello e gradevole. Questo era Renzo Olivieri. Sentiamo quali sono invece le vostre considerazioni o magari anche perplessità in vista dell'inizio della stagione. Maurizio dalla provincia di Varese, buon pomeriggio. Sì, buon pomeriggio. Io volevo, oltre che dare una mio commento alla tessera del tifoso, volevo fare anche una testimonianza. Io sabato ero presente con mia figlia di 8 anni a San Siro, allo stadio. In quale settore? Piazzanello. Uh-huh. Però, niente, volevo segnalare una cosa. Sono più d'accordo sicuramente con Olivieri, non che con il commissario Tanzi della polizia, perché... non so se voi sapete come funziona San Siro, il filtraggio per l'ingresso allo stadio. Sì. L'anno scorso bisognava presentare il biglietto con il nome e la partita e la carta d'identità prima di attraversare i tornelli. Sì. Ora, adesso, con la tessera del tifoso, dove è inclusa la partita, quindi non si può leggere che partita si va a vedere, qualsiasi persona può attraversare il prefiltraggio. E sabato ho visto tantissimi ragazzi, persone che passavano il prefiltraggio con la tessera del tifoso, quindi quelli della sicurezza non possono vedere che partita vanno a vedere e che partita hanno pagato, ma in realtà non l'hanno pagata, perché poi ai tornelli entrano in due, in tre, uno lo paga e altri due entrano senza biglietto, senza aver pagato. Ma come si fa a entrare ai tornelli senza biglietto, mi scusi? I tornelli non hanno... Per due. Ah, ho c'è capito. Spazio per due, uno entra e l'altro dietro, e quindi e nessuno controlla. Non c'è personale sufficiente per controllare ogni tornello, perché ce ne sono decine, sì, in fila, e quindi niente, si è peggiorata la situazione. Va bene, la ringraziamo per la sua testimonianza. Grazie Maurizio. Marco, hai qualcosa da aggiungere? È una testimonianza molto interessante, anche perché uno delle novità della prossima stagione dovrebbe essere per l'accesso allo stadio un canale preferenziale per chi ha la tessera del tifoso. Io non so in quanti stadi c'è già questo canale preferenziale, quanti si sono adeguati. Sicuramente queste situazioni descritte non mi meravigliano, insomma, chiunque ha frequentato un po' gli stadio, li frequenta, sa che spesso e volentieri gli steward chiudono un occhio. E sul capitolo steward, per esempio, il ministro Maroni, sempre nella intervista, ha fatto riferimento a una possibile novità legislativa, un decreto sulla sicurezza in generale e anche sulla sicurezza negli stadi, che dovrebbe essere varato fine agosto, inizio settembre a questo punto, che dovrebbe prevedere il riconoscimento agli steward del ruolo di pubblici ufficiali quando svolgono le sue funzioni. Una prospettiva, insomma, che mi lascia anche qui abbastanza sconcertato, anche perché io ricordo durante l'approvazione della legge che ha previsto il ruolo degli steward ci fu addirittura chi propose in Parlamento di dotare il capo degli steward di una pistola, con tutti i pericoli ovviamente che ne derivavano. Per fortuna di quella proposta cadde, nessuno l'ha raccolta. Ora, gli steward sono reclutati generalmente da società esterne che forniscono il servizio, pagati con pochi euro, e si assumono. Società esterne che forniscono il servizio al club che ospita la partita. Esattamente, e vengono pagati, insomma, qualche decine di euro, insomma, comunque non cifre da poter poi affrontare con serenità tutti i rischi che sono connessi a questa funzione. Sì. E aggiungo, al di là del discorso economico, che ha una sua rilevanza, è chiaro, c'è anche una educazione al ruolo di pubblico ufficiale che non è adeguata per gli steward, che fanno un altro lavoro, hanno un altro percorso di vita, non hanno fatto un percorso realmente utile, no? Per essere poi autorevoli e sapere anche come comportarsi. Chi svolge poi il ruolo di pubblico ufficiale è tenuto a tutta una serie di obblighi, deve per esempio impedire che siano commessi reati o comunque che siano commesse violenze, deve denunciare ciò che vede, a cui assiste. Immagino, purtroppo accade per esempio che le curve insomma siano usate per esempio per lo spaccio di stupefacenti, sono piene le cronache giudiziarie, e a quel punto mi chiedo in che modo possa interporsi uno steward e subendo quali ripercussioni. Insomma, è una novità legislativa che andrà valutata, a mio avviso, con grande scrupolo. C'è un ascoltatore che scrive al 349-238-6666, Cristian da Verona, che chiede: la tessera del tifoso vale per tutti gli stadi? Mi spiego, ho fatto l'abbonamento e la tessera del tifoso con il Chievo. Se voglio andare a vedere, ad esempio, Milan-Inter a San Siro in curva, posso comprare il biglietto con la tessera che ho fatto a Verona o devo farne una seconda a Milano? Dovrebbe essere garantito con una sola tessera del tifoso l'accesso a tutti gli stadi e quindi la possibilità di acquistare tutti i biglietti, appunto perché la tessera del tifoso rappresenta una sorta di carta d'identità del tifoso DOC, del tifoso non violento, e dovrebbe appunto essere uno strumento per ottenere tutta una serie poi di agevolazioni, tra cui questa. Sentiamo prima dell'interruzione per i mercati e prima di dare spazio ad altri ascoltatori, vedo Paolo da Genova, Angelo da Pesaro in attesa, un altro dibattito a distanza fra il segretario generale del sindacato autonomo di polizia Nicola Tanzi e Renzo Olivieri. Ecco Tanzi. Sì, noi siamo pronti, siamo favorevolissimi ed è numerose volte che come segretario generale del sindacato ho dichiarato che oltre alla tessera del tifoso bisogna dare corresponsabilità ai club, perché i club dovrebbero pagare secondo noi questa gestione della sicurezza. È un peso enorme che non può gravare solamente sulla società civile, e in questo momento in cui non ci sono risorse per la sicurezza dei cittadini siamo convinti che si dovrebbero fare carico le società di pagare in parte queste spese per la sicurezza. Sono milioni di euro all'anno. È possibile, Marco, che le società si facciano carico di una parte di queste spese? Negli ultimi due anni noi abbiamo già assistito a un cambiamento epocale, cioè la sicurezza all'interno degli stadi viene gestita e quindi sostenuta economicamente dai club, all'esterno dello stadio invece ci sono le forze di polizia, peraltro forze di polizia che per esempio nello scorso campionato di B hanno subito feriti, tantissimi feriti, c'è stato un incremento credo del 90% tra i feriti nelle forze dell'ordine, e quindi chiaramente sarebbe opportuno una sorta di contributo delle società. Chiaramente però la forza pubblica va gestita dallo Stato e una interferenza, anche se pur positiva in quanto appunto contributo economico, dovrebbe essere anche qui oggetto di studio e di valutazione, a mio avviso. Un ascoltatore che non si firma al 349-238-6666 con un SMS si dice d'accordo con la tessera del tifoso, ma pone una domanda che giro a Marco Belenazzo, collega del Sole 24 Ore, che ci sta dando tutte le indicazioni, gli aggiornamenti su questi aspetti legati alla tessera del tifoso. La domanda è: come fanno a esistere i bagarini fuori dallo stadio se i biglietti sono nominali? Bellissima domanda che girerei direttamente alle procure e alle questure delle varie città, perché in realtà non dovrebbero più esistere, in quanto, ma questo a prescindere dalla tessera del tifoso, già da qualche anno i biglietti sono nominativi, ci sono ricevitorie e agenzie autorizzate che dovrebbero, per la terza volta, vendere i biglietti solo dietro presentazione della carta di identità e con tutte le limitazioni che ci sono, che sono previste poi per le varie partite e che saranno ancora previste nonostante la tessera del tifoso, perché dicevo non si applica in tutti i casi, e quindi i bagarini non dovrebbero più esistere. I bagarini ci sono ancora. Mi risulta insomma che ci sono diverse indagini in corso in varie parti d'Italia per capire come questo accada ancora. Devo dire, per esperienza personale, in questi anni, avendo seguito la Champions League per Premium Calcio in giro per l'Europa, avendo seguito da appassionato anche prima e anche in questi anni altre situazioni all'estero in cui ho cercato di vedere una partita allo stadio non da giornalista ma da semplice tifoso, che I Bagarini sono l'unica cosa che ci accomuna alla Spagna, all'Inghilterra e ad altri paesi. Ci sono anche lì fuori dallo stadio. Ci sono anche lì, li ho visti anch'io, e da questo punto di vista, insomma, possiamo rallegrarci. Insomma, non siamo ultimi fanalini di coda in Europa, esatto. Almeno da questo punto di vista. Paolo da Genova ha chiamato all'800 24 00 24, non è più però disponibile in questo momento. Dovrebbe esserci Angelo da Pesaro a disposizione. Angelo, buon pomeriggio. Sì, pronto? Sì, abbassi la radio, se no non la sentiamo. Sì, io chiamavo per un'informazione. Ancora, la spenga direttamente, che è meglio. L'ho spenta, è solo che è il viva luce forse. Ah, ho capito. Vediamo se la sentiamo, prego. No, chiedevo, sono di Pesaro, però siamo tifosi del Napoli. Sì. Volendo portare il mio figlio a vedere Cittina-Napoli quest'anno, che, per andarla a vedere, ma... se non si fa l'abbonamento del Napoli non si può fare la tessera del tifoso, cioè non ho capito come funziona. No, la tessera del tifoso si può anche fare a prescindere dall'abbonamento, e può servire per acquistare biglietti in varie parti d'Italia. Tra l'altro il possessore della tessera del tifoso può acquistare fino a 4 biglietti per sé, i propri familiari, ovviamente con relativo documento di identità, e quindi diciamo non esiste una relazione stretta. La tessera del tifoso è obbligatoria soltanto se si vuole comprare l'abbonamento, e se si vuole seguire la propria squadra nel settore ospiti, in trasferta, in questo modo sfuggendo alle limitazioni che l'Osservatorio sulle manifestazioni sportive, il CASMS, di volta in volta delibereranno nel corso dell'anno in base alla pericolosità del match. C'è un ascoltatore da Genova che si firma Davide, ci chiede di sottolineare la lezione di stile e sportività che hanno dimostrato i tifosi ieri sera, ed è una cosa che facciamo molto volentieri. Ribadisco che uno degli spettacoli migliori di quest'estate, abbastanza deprimente dal punto di vista dei tifosi e dei loro comportamenti nelle gare amichevoli, era già stato quello della gara di andata al Weserstadion, che è uno stadio piuttosto caldo. Si sentivano quasi solo, soprattutto i tifosi della Sampdoria, che erano circa 3.000 ieri sera, hanno appoggiato e sostenuto la squadra con un entusiasmo meraviglioso. Anche per questo, ripeto, la disillusione del gol di Rosenberg al 93esimo è una di quelle più clamorose e pesanti da assorbire che si ricordino negli ultimi anni di calcio europeo per le nostre rappresentanti. Per quanto anche la Samp teneva a questo appuntamento, ora però c'è l'Europa League e, come ha precisato il presidente Garrone, la Samp deve affrontarla con lo stesso entusiasmo. Tra un attimo andiamo da Andrea, che ci chiama da Cesena. Prima però vi faccio sentire un'altra posizione rigida e contraria alla tessera del tifoso da parte di Renzo Olivieri, un altro concetto da parte del presidente dell'Associazione Italiana Allenatori. Mi sembra di essere ghettizzato, io non vorrei mai andare in un posto dove ci sono tutti dello stesso colore, non mi garba. Perché si è scelto questa soluzione mentre ce ne potevano essere altre? Si è scelta la soluzione di dividere, di fare zone di tribuna neutre dove non ci può andare nessuno per evitare i contatti, insomma le strade sono diverse. Ci sono, devo dire, molti ascoltatori che sono d'accordo con Renzo Olivieri, ad esempio Walter da Perugia, che scrive: basta applicare la legge, sono noti a tutti i delinquenti, basterebbero molti meno poliziotti, la gente tornerebbe allo stadio. Giustamente c'è un ascoltatore che ricorda e precisa, perché siete veramente attentissimi, che in Inghilterra i biglietti non sono nominativi. Questo non vuol dire che i Bagarini possano scorazzare all'esterno degli stadi. Ti sorprende, Marco, che una figura istituzionale del mondo del calcio esprime un parere così contrario? Un po' sì, ma capisco anche le posizioni di Olivieri. In qualche modo c'è un po' di perplessità negli addetti a lavori sull'efficacia di questa di questa norma e di questo strumento, e ripeto, non perché si discuta lo strumento in sé, ma in relazione a quelli che sono gli obiettivi. Se si ritiene da parte delle istituzioni che sia questo il metodo per sradicare la violenza dagli stadi, allora si poteva e si doveva fare di più, ci si doveva credere di più. Andrea da Cesena ha chiamato all'800 24 00 24. Buon pomeriggio. Buon pomeriggio a tutti. Prego. Volevo dire una cosa, io non capisco la necessità della tessera del tifoso, visto che avevamo già abbonamenti nominali con data, nome di nascita, nome, cognome, tutto quanto. E tu andavi a fare il biglietto, sapevano in che posto andavi e sapevano tutto di te. Non capisco l'utilità della tessera del tifoso, o meglio, l'hanno fatta Bancomat perché c'è qualcuno che sicuramente prenderà le percentuali. L'hanno fatta perché il governo si fa una buona pubblicità su un provvedimento sciocco e inutile, e in più vorrei ricordare che chi non può andare allo stadio perché ha commesso atti violenti ha l'obbligo di firma durante le manifestazioni sportive, per cui deve andare in questura e starsene lì per tutta la durata della partita. La tessera del tifoso è la più grande baggianata che abbiano potuto inventare. È stato chiarissimo, Andrea. C'è anche una motivazione economica? C'è una motivazione economica legata allo scopo di fidelizzazione che viene indicato come obiettivo accanto a quello per la sicurezza negli stadi, diciamo nella costruzione di questo strumento. Tra l'altro Autogrill e Ferrovie garantiranno degli sconti ai tifosi in possesso della tessera del tifoso. Si potrà poi acquistare i prodotti della squadra, quindi c'è anche un'esigenza di merchandising. Le società potranno effettivamente fare convenzioni con centri commerciali e negozi, insomma, per garantire ulteriori sconti ai propri tifosi. Questa tessera potrà in ultima analisi fungere anche da carta di credito e rappresentare abbonamento e biglietto quando si realizzerà il progetto di smaterializzazione dei titoli di accesso allo stadio, che è il progetto finale, e quindi si potrà semplicemente andare allo stadio ricaricando con dei soldi come una tessera Bancomat questa tessera e pagare in quel caso il biglietto. C'è una motivazione economica senz'altro, spero che nella testa di chi sta governando questo progetto non sia la motivazione principale, anche perché si potevano trovare altre strade a quel punto. Di certo, al di là delle posizioni che ognuno di noi può avere, quello che emerge chiaramente da questa giornata, e siamo a 3 giorni neanche dall'inizio del campionato ormai, è che non c'è stata la chiarezza necessaria nel comunicare tutto l'iter che serve per arrivare alla tessera del tifoso e per possederla. Ad esempio, ci sono altre 2 richieste di ascoltatori al 349-238-6666. La prima è di Daniele da Varese, che dice: io ho la tessera del tifoso con l'Inter e non vale per vedere il Varese che è in Serie B, dovrei fare un'altra, è assurdo, almeno così mi hanno detto le forze dell'ordine a Torino. Mentre Stefano dice, ci racconta un po' anche i suoi progetti di questa stagione: abito a Pisa, questo inverno mi piacerebbe, mentre siamo a Torino, trovare parenti, portare mio figlio di 6 anni a vedere una partita se troviamo i biglietti. Ma dobbiamo fare la tessera? E dove? A sensazione mi sembra un altro motivo per allontanare la gente dagli stadi. Sì, in realtà in quest'ultimo caso rispondo alla seconda per quel che posso, perché poi ho anche io alcune incertezze. A proposito, poi ci sono tutte le altre domande in questo decalogo, questa piccola brochure che tu mi hai portato, che si trova sul sito del Ministero dell'Interno, www.interno.it, c'è il link alle domande più frequenti sulla tessera del tifoso. A questa come rispondiamo? In realtà non servirebbe se si vuole semplicemente vedere una partita della tessera del tifoso, serve in trasferta per andare nel settore ospiti, quindi in teoria non dovrebbero esserci problemi, e ribadisco in teoria. Fabrizio ha chiamato all'800 24 00 24 dalla provincia di Milano. Buon pomeriggio. Buon pomeriggio a tutti gli ascoltatori. Diciamo che in parte hanno già risposto l'ascoltatore precedente, le 2 lettere che ha letto lei. In realtà, come diceva l'ascoltatore precedente, anch'io facendo l'abbonamento ero già schedato, tra virgolette, quindi avevano tutti i dati. Chi voleva delinquere lo faceva prima, perché durante le partite in cui non c'era la vendita dei biglietti non si poteva andare in trasferta e la vendita era riservata solo ai residenti, c'erano lo stesso le persone dell'altra tifoseria presenti allo stadio. Quindi chi vuole delinquere, in ogni caso un metodo lo trova: intestano le autovetture a persone che sono ignare, figuriamoci per intestare una testa del tifoso a una persona che non sa neanche. Quindi non è un provvedimento efficace, secondo lei? Anzi, come diceva, negli ultimi 2 sms peggiora, perché se io sono negli ultimi 2 anni che non faccio più la testa, l'abbonamento, andavo a vedere delle partite sporadiche, alcune volte, e in questo caso dovrei fare la tessera, quindi non posso programmarla nella settimana, ma devo programmarla mesi prima la partita, quindi tutte quelle persone che vedono una partita all'anno o ne vedono un paio sono scoraggiate ad andare allo stadio, quindi chi vuole delinquere continuerà ad andare allo stadio, mentre le persone regolari sarà un modo per dissuaderle per andare, perché è sempre un passaggio in più, un costo in più che alla fine non risolve il problema. Ma già prima, nel momento in cui cedevo la testa o prendevo la testa di un collega o di un amico, io andavo sul sito e mi registravo, sì. Però nell'80% dei casi lo stadio non ha mai controllato la lettera che stampavo. Questo è vero, questo il problema è vero. È, come spesso succede nelle leggi italiane, si fanno dei provvedimenti nuovi per sopperire a quelli vecchi, però e non si applicano quelli vecchi che sarebbero già buoni. Sono necessari e quindi sono inutili. Grazie, grazie Fabrizio, dalla provincia di Milano. Torniamo ancora con altri ascoltatori all'800 24 00 24, sms al 349 238 66 66 per parlare ancora di tessera del tifoso con Marco Bellinazio, collega del Sole 24 Ore. Puoi rimanere con noi fino alla fine? Sì. Oh, benissimo, benissimo. Ancora ascoltatori all'800 24 00 24, precedenza a quelli che hanno richiesto considerazioni sulla tessera del tifoso, poi nel finale qualcuno che ha l'esigenza incontenibile di trattare anche oggi il calciomercato verrà soddisfatto, poi anche la parentesi finale di motori, con me c'è sempre Marco Bellinazio, collega del Sole 24 Ore. C'è un'altra domanda di Matteo che chiede se io abbonato voglio dare il posto a un altro con la delega, quindi con la registrazione della persona alla quale viene ceduto provvisoriamente l'abbonamento, serve la tessera del tifoso? Salvo nei casi in cui abbiamo detto, salvo il caso in questo caso insomma credo che sia abbastanza semplice, si seguiranno le regole precedenti, come vedi si viaggia un po' anche per quanto mi riguarda, ho letto tutti i provvedimenti ma diventa poi nella casistica difficile dare risposte certe. Pazzesco, speriamo sì. Che nel corso delle prossime settimane si chiariranno tutti questi dubbi, insomma diventerà più semplice questo sistema. Riusciamo a chiarire qualcosina nella differenza tra biglietto nominale e tessera del tifoso? La tessera del tifoso, come dicevo prima, è una sorta di carta d'identità del tifoso DOC che dovrebbe garantire un collegamento in tempo reale attraverso uno specifico software che però mi risulta non sia ancora pienamente operativo e sarà solo collaudato domenica. Uh-huh. In tempo reale, dicevo, tra le società e le questure, in modo tale da rilasciare soltanto a chi non ha un DASPO in corso e a chi nel frattempo non viene raggiunto da una condanna per reati da stadio, anche in primo grado peraltro, la possibilità di accedere tranquillamente allo stadio, di superare tutti quei divieti che abbiamo raccontato nella scorsa stagione e che in parte ci saranno anche in questa stagione. Di conseguenza, insomma, è una sorta di card che dovrebbe facilitare le cose e mi auguro che alla fine faciliti effettivamente le cose. Sergio da Bergamo ha chiamato all'800 24 00 24, prego. Sì, buongiorno a tutti. Buongiorno. Buongiorno. Sì, volevo fare una considerazione. Sì. Praticamente sono in parte d'accordo con Olivieri che la tessera del tifoso può servire a poco, perché le società conoscono benissimo i tifosi violenti e che hanno anche degli interessi a farle entrare, non so per che motivi, ma li conoscono, è sempre stata così. E poi un'altra cosa, vorrei parlare della cultura dell'Italia. Prima di tutto non abbiamo stadi adeguati. Verissimo. Abbiamo degli stadi obsoleti al massimo, che andare a vedere una partita, io preferisco stare a casa. È vero, è vero. E altra cosa, anche la cultura dei dirigenti e dei giocatori non è come quella anglosassone, che tra simulazioni, tra polemiche e tra TV che esasperano tutti i falli, tutti i fuorigiochi, i millimetri, già no, e si crea una situazione difficile. Sono d'accordo soprattutto sull'aspetto della collaborazione da parte di giocatori, allenatori e parti in causa, come ho modo di ripetere su questo suo assist, si parte malissimo con questa bagarre altamente evitabile tra Massimo Moratti e la Juventus, ancora prima che inizi il campionato, e fortuna che era tutta colpa di José Mourinho, ma domani parleremo anche di lui in maniera un po' più approfondita e potrete scatenare tutte le vostre considerazioni sull'ex allenatore dell'Inter. Ribadisco, perché Michele ce lo scrive e lo sottolinea, che abbiamo già precisato che chi non fa la tessera del tifoso può regolarmente comprare il biglietto per andare a vedere la partita. Questo è stato ampiamente ribadito. Alberto da Padova, buon pomeriggio. Sì, buon pomeriggio, Sasso. Prego. Senta, io volevo soltanto chiedere una cosa. Io ora sono sotto Daspo, però da quanto ne so, io quando potrò tornare allo stadio, potrò comprare il mio biglietto e entrare con il documento e tutto quanto. La stessa cosa vale in trasferta, non potrò andare nella cura ospiti, però potrò andare in tribuna con i tifosi avversari. Non penso che questo sia un miglioramento, per me è un passo indietro. Rimanga lì con noi che poi se c'è possibilità ci dà ulteriori chiarimenti sulla sua posizione. È vero questo, Marco? Stando alle norme, alla lettera della legge, a quello dobbiamo fermarci, chi ha un DASPO non può entrare allo stadio, non può avere la tessera del tifoso. E quando scade il DASPO? Assolutamente sì, a quel punto scaduto il provvedimento, se non ci sono misure di prevenzione o non ci sono state condanne per reati da stadio negli ultimi 5 anni, a quel punto si può ottenere la tessera del tifoso, entrare allo stadio, secondo le normali regole. E in trasferta, come mi sembra chiedesse Alberto, si può andare, una volta sempre scaduto il DASPO, non nel settore ospiti senza avere la tessera del tifoso? Non nel settore ospiti si può andare, se non ci sono altre controindicazioni si può acquistare il biglietto nominativo e a quel punto accedere. È soddisfatto di queste risposte, Alberto? Ha altre cose da chiederci? Sì, no, sono molto soddisfatto, però non mi sembra che la sicurezza negli stadi vada avanti. Io da tifoso posso andare nella tribuna avversaria, dopo può succedere qualsiasi cosa, capito? Sono le perplessità che abbiamo espresso, insomma, in partenza di questa trasmissione. Sono una cosa all'italiana, ecco, niente di più. Va bene, si comporti bene, Alberto. Quando le scade il DASPO? 2013. Tra l'altro nel 2013 non ci saranno nemmeno più le barriere, come ha sottolineato il ministro Maroni, per cui insomma si vivrà e si vedrà un altro calcio, speriamo, in Italia. Ma com'è, a seguire il Padova o è tifoso di qualche altra squadra? No, il Padova. Ah. Vabbè, intanto insomma speriamo per il Padova che le cose vadano bene, che la stagione sia un po' più serena di quella scorsa in Serie B, lo segua con passione, poi ora nel 2013 speriamo che tutto sia anche più chiaro anche per lei. Grazie, buon pomeriggio e a presto. Marco scrive: naturalmente sarebbe più semplice evitare le trasferte alle tifoserie organizzate, e chi vuole andare in trasferta si fa la tessera e ci va autonomamente. È possibile che si arrivi anche a questo? Può essere una delle soluzioni, insomma il settore ospiti per le trasferte organizzate varrà se tutti quelli che partecipano hanno la tessera del tifoso, insomma altrimenti resterà chiuso. Va anche sottolineato che una delle proteste nei confronti di questo provvedimento portata dalla curva dell'Inter sabato sera è stata quella di non esporre striscioni, lo spettacolo del calcio non merita questo schifo, hanno sottolineato i tifosi dell'Inter nello striscione della curva nord. Io che sono nato giornalisticamente con il calcio sudamericano amo i colori e lo spettacolo coreografico del calcio argentino in particolare. Va anche detto però che in Inghilterra da anni ormai gli striscioni e le bandiere non entrano più, infatti, e non ci sono problemi. Infatti mi piacerebbe sapere chi ha autorizzato quello striscione o se era autorizzato quelle striscione, visto che, come appunto sappiamo, la normativa prevede un'autorizzazione preventiva per mostrare gli striscioni, insomma. Walter da Trento, per chiudere questo appuntamento di A Tempo di Sport con qualche bollicina di calciomercato, presumo. Walter, buon pomeriggio. Buon pomeriggio a voi. Io ho telefonato per un motivo, che volevo parlare di Calazze, visto che si parla di polemiche. Anche questa, perché forse, non so, ma i giocatori di calcio hanno perso il senso della realtà, perché una persona che guadagna 3.200.000 euro l'anno e che viene pagata regolarmente, ci vergogni di chi lo paga, mi sembra una cosa assurda, permettetemi di dirlo. Dopodiché uno può parlare di tante altre cose, ma queste persone hanno perso il senso della realtà, guadagna 100 volte di quanto guadagno io. Sì, è vero Walter, rimanga un attimo con noi, è vero quello che lei dice, posso anche dare testimonianze dirette di calciatori o ex calciatori che ho avuto modo di conoscere in questi anni, che sanno naturalmente quanto è importante l'aspetto economico, è fondamentale, e quanto aiuta la loro vita attuale da calciatori e anche quella futura al termine della carriera. È anche vero però che per alcuni questo non è sufficiente. Chi è un grande professionista e chi ha ambizioni ha anche l'ambizione di soddisfare la sua volontà di essere decisivo in campo, di essere utilizzato e di potersi allenare durante la settimana sapendo che poi a qualcosa può servire se si allena meglio dei compagni. In questo caso mi sembra che la protesta di Calazze sia vada in questa direzione, e come ci sono stati tanti giocatori che hanno imposto la loro volontà per andare via in maniera più o meno esplicita, Calazze in questo caso espone la sua volontà a rimanere al Milan, come ha fatto Jankulovski, per rispettare un contratto sottoscritto da entrambe le parti. E quando lui dice i tifosi dovrebbero considerarmi una bandiera perché, o meglio, dovrebbero considerare Jankulovski una bandiera perché ha rifiutato l'Inter, non è una frase così sballata. Al di là del discorso economico, cosa ne pensa? Poi la saluto. Io su questo ci può anche stare. Io dico solamente una cosa, che però è 2 anni che Calazze, Jankulovski forse gioca anche fuori ruolo, quindi io non voglio neanche stare a sindacare Jankulovski, che per il resto non ha detto niente. Ma Calazze 2 anni che è un ex giocatore, ma lo è lui di suo. L'ha dimostrato nella sua nazionale, l'ha dimostrato nel Milan quando è stato chiamato in causa. È un ex giocatore. E gli sono state proposte anche altre soluzioni, lui non le ha rifiutate, viene pagato comunque mensilmente, anche se viene messo da parte ci può anche stare, mi pare che faccia parte del gioco. Certo, sicuramente poi questa intervista che oggi è stata riportata dal Corriere della Sera costerà a lui un richiamo anche economico da parte della società. Chiudiamo con lo spazio dedicato ai motori. Sport e motori. Queste le considerazioni del responsabile tecnico della Ferrari Stefano Domenicali in vista del Gran Premio del Belgio di Spa-Francorchamps che si avvicina nel prossimo weekend. Ma la macchina avrà un ulteriore piccolo miglioramento di prestazione, fondamentalmente, come abbiamo sempre detto, legato all'aerodinamica. Speriamo sia sufficiente, perché sono convinto che anche le altre squadre porteranno degli sviluppi che spero siano più piccoli rispetto a quelli che porteremo noi in pista. Un tracciato, devo dire, unico per la configurazione, per la lunghezza della pista, per il fatto che piace a molti piloti, e speriamo che sia un circuito che si adatta e si adatti meglio alla nostra vettura rispetto alle altre. Questo era Stefano Domenicali dal sito ufficiale della Ferrari. Io ringrazio Marco Bellinazzo, collega del Sole 24 Ore, per la preziosissima presenza in questa giornata dedicata alla tessera del tifoso. A presto. Grazie a voi, buon pomeriggio. Buon pomeriggio a Marco Bellinazzo, buon pomeriggio a voi che ci avete seguito, a Fabio Cantadori in regia e a Luca Rinaldi in redazione. Domani sorteggi di Champions League alle 18 dopo la chiusura del preliminare. Questa sera rischiano lo Zenit di Spalletti ad Auxerre e anche il Tottenham in casa con lo Young Boys. Parleremo anche dell'uomo che ha riportato la Champions nella Milano Nerazzurra dopo quasi 50 anni. E ve lo anticipiamo così. Grazie per averci seguito. Domani su Radio 24. Buon pomeriggio da Massimo Callegari. A tempo di sport.